Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. La canzone degli Shalalalas, sigla della serie TV L'Allieva, ci porta subito a parlare di Alessia Gazzola, la scrittrice che ha creato il personaggio della specializzanda in medicina legale, protagonista di 8 romanzi. Ma dal 2019 Alessia Gazzola ci ha proposto anche un nuovo personaggio seriale, Costanza Macallè, ora protagonista del romanzo Costanza e buoni propositi, pubblicato come gli altri da Longanesi. Costanza è un'anatomopatologa specializzata in paleopatologia, ossia lo studio delle malattie del passato attraverso i resti umani scheletrici o mummificati. Quindi, insomma, le storie di Costanza si intrecciano sempre con casi del passato. Costanza si è trasferita da Messina a Verona per lavoro, vive con la sorella, una figlia di 3 anni, Flora, frutto di una notte di passione con Marco, che ha saputo da poco di essere padre e però nel frattempo sta per sposare la sua fidanzata. Insomma, a che punto sono i rapporti fra Costanza e Marco in questo nuovo romanzo? Sono a un punto di evoluzione. Loro in realtà hanno una partenza un po' anomala, perché loro condividono veramente il massimo dell'intimità che si possa condividere con una persona, cioè avere un figlio con una persona, e però sanno pochissimo l'uno dell'altra. E non solo sanno poco e niente, ma hanno anche tutta una serie di pregiudizi reciproci. Per cui, diciamo, per me anche come autrice, quello che è stuzzicante da un punto di vista narrativo, no? È proprio compiere questo processo inverso, no? Dal massimo, che comunque per certe coppie è un approdo, ovviamente, no? La procreazione. In questo caso è tutto al contrario. E nel loro caso, figlio, esatto. Poi bisogna capire chi sono, perché loro di fatto hanno avuto questa notte di sesso e poi non si sono mai frequentati. Infatti, esattamente, è un punto di partenza, diciamo, anomalo. E quindi, dicevo, per me è davvero stuzzicante da un punto di vista narrativo, perché devono superare questi pregiudizi, si devono conoscere. Per di più, lui è molto impegnato con un'altra persona. Si sta per sposare, semplicemente. Diciamolo, tanto. Semplicemente. Non stiamo facendo spoiler, dai. Come in quel film, no, di Aldo Giovanni e Giacomo, ma non è una cosa seria, e tipo si sposava poco dopo. Solo per sposare un'altra, però va bene così. Semplicemente, insomma. Che poi è stato anche quello, devo dire, per me un po' difficile come autrice, cioè stuzzicante sì, ma anche difficile, perché chiaramente in una vicenda del genere lei ha il buon proposito, no, come dice anche il titolo, ovviamente, di non mettersi in mezzo, di non piantare grane, di non creare complicazioni. Lei ha questo suo codice di lealtà interiore cui vorrebbe essere assolutamente fedele, cui si vorrebbe attenere. Stai usando il condizionale, perché poi nella pratica forse il suo carattere la porta per altre strade. Esatto, però dall'altro lato, come fai a non uscire, no, come un personaggio negativo se ti poni come terzo incomodo in una coppia? Come fai a non far uscire lui come personaggio negativo? E dall'altro lato, lei non doveva essere, cioè la promessa sposa non doveva essere la macchietta della ragazza che, vabbè, ok, se la tradisci se l'è meritato. Assolutamente no, perché volevo che questa Federica fosse in realtà un personaggio con valenza positiva, una ragazza assolutamente... Ma infatti ha una valenza positiva. Infatti... Tu sei stata una grandissima equilibrista come scrittrice. Che bello. Perché alla fine, come dire, tutti ne escono bene, insomma, non ci sono personaggi negativi. All'inizio di questo romanzo Marco ha appena riconosciuto appunto la figlia Flora e poco dopo, insomma, c'è il famoso incontro con il papà di Marco, uomo, insomma, dell'alta borghesia, un po' rigido. La madre invece di Marco, l'avevamo visto nel primo romanzo, era scomparsa, così come è morta la mamma invece di Costanza. L'incontro non è esattamente idilliaco, si incontrano e si scontrano dei mondi un po' diversi. Sì, infatti, anche perché poi quest'uomo, no, che è un po' abituato però ai colpi di testa di questo figlio è sempre stato forse un filino al di sotto delle aspettative del padre, e quindi l'accoglienza è un po' quel che è. Però, insomma, poi alla fine questa piccolina riesce un minimo, come dire, a scaldare il cuore di questo burbero nonno. E veniamo al caso, diciamo, di cui si deve occupare Costanza, perché abbiamo detto che lei è un'anatomopatologa specializzata in paleopatologia, ossia medicina del passato. Sono quelli che ricostruiscono anche le malattie che sono avvenute nel passato, quindi lavorano insieme ad antropologi, archeologi e così via. Lei si trova a Verona, si è trasferita da Messina, ha un contratto di un anno. anno in questo istituto. Vengono ritrovate delle ossa però a Milano. Guarda caso si stanno facendo dei lavori e Marco, che è architetto, sta insomma lavorando appunto per costruire un impianto antincendio. Vengono trovate queste ossa e viene chiamata la squadra di Costanza, appunto. E qui, come nel primo volume, si intreccia un caso del passato. Siamo alla fine del 1300 e pare che insomma queste ossa possano appartenere a Bernarda, che era figlia di Bernabò Visconti, signore di Milano. Giusto. Fu condannata dal padre ad una fine terribile. E questo è tutto vero. Ecco, morire di stenti perché era stata colta, diciamo, in adulterio. Ecco, questo è un fatto vero. Tu lo specifichi poi nelle note finali. Sì, è una storia vera, brutale davvero, come soltanto la realtà a volte sa essere, soprattutto nel Medioevo e soprattutto duole dirlo, no, verso le donne. Bernarda era davvero questa figlia di Bernabò, che aveva grossomodo 20 anni, fu rinchiusa. È condannata a morire di stenti. In realtà lui pensava che diciamo l'agonia sarebbe durata di meno. In realtà poi lei, poveretta, ha agonizzato da gennaio a ottobre, perché in realtà qualcuno pietosamente le passava a volte un tozzo di pane, una cosa. Insomma, una vicenda tristissima, veramente anche terribile. Ecco, c'è anche un mistero in teoria sulla morte, perché qualcuno dice che magari non era morta, ma ha continuato a vagare nel nord Italia, e lì si innesta un po' Il caso, insomma, anche il meccanismo dell'impostore, di chi si sostituisce ad un'altra persona. Esatto, perché questa Bernarda fu un po' la Anastasia Romanoff della Milano del 300, né più e né meno, perché si cominciò a vociferare che fosse sopravvissuta a questo suo terribile destino, e di fatto ci fu questa ragazza, poi ovviamente diventò una donna perché questa cosa durò più di 20 anni, che si spacciava per lei, e inizialmente non lo faceva per soldi. Poi, leggendo il romanzo, o anche documentandosi se non si vuole necessariamente leggere il mio romanzo, però insomma si può scoprire che alla fine ci fu anche tutta quanto una truffa. Quindi quali erano veramente le motivazioni? Era una mitomane? Era una pazza? Cosa spingeva questa donna nel 300 a spacciarsi per un'altra? Io ho trovato veramente molto, molto affascinante questo, specialmente immaginandolo in quel tipo di periodo storico. Tornando invece ai nostri giorni e appunto a Costanza, appunto lei ha dei rapporti con gli uomini un po' problematici, visto che con Marco non riesce insomma a stare insieme. Viene corteggiata da Roberto, che è tra l'altro un collega di Marco, ma mi ha soprattutto affascinato il suo rapporto con i social, perché è vero che adesso quando conosciamo qualcuno andiamo subito a vedere il suo profilo Facebook o magari a googlarlo. Allora tu a un certo punto scrivi: Costanza sta parlando con sua sorella, con la quale appunto vive, e la sorella dice: beh, ma stai scartando questo tipo troppo presto. E Costanza risponde: l'ho cercato su Facebook ed è iscritto al gruppo quelli a cui piace lo schiaffo sul sedere durante la pecorina. Mi sembra motivo sufficiente. Scusate, io rigolo, ho letto proprio questa frase per far capire anche l'ironia che c'è nei tuoi romanzi. E diciamo che il mio editor fino alla fine mi ha detto: tu sei proprio sicura di voler lasciare questa cosa? E io l'ho anche dichiarata, l'ho anche letta questa frase. Ecco, non ho scampo. Allora, questa cosa è un fatto vero. L'amica a cui è successo, spero che mi perdonerà, anche questa è vera, come secondo me le cose che poi funzionano meglio nei libri. Solo che, per tutta risposta, questa mia amica in realtà si è iscritta a sua volta. Parliamo di tanti anni fa. Io non ho verificato se il gruppo esiste ancora. Vabbè, però insomma, è un elemento della contemporaneità, come il fatto che a un certo punto Costanza decida di iscriversi su Tinder per vedere un po' che mondo c'è, e anche lì rimane abbastanza stupita, sconcertata, turbata. E ce lo siamo detti, insomma, Tinder è una grande piazza, e insomma può essere attraversato da chiunque, brave persone o persone un po' più superficiali, ecco. E diciamo che Costanza, come dire, reagisce a modo suo. Lei è un'impetuosa, a certi tipi di proposte risponde a modo da par suo. Costanza è molto legata alla sua famiglia d'origine. A Messina è rimasto il papà e suo fratello Michele, che ha un ritardo mentale. Poi appunto c'è sua sorella che vive con lei, alla quale è molto affezionata. È veramente così importante per lei la famiglia? Ma sì, perché poi è una famiglia che si è raccolta in se stessa, anche in seguito alla perdita, no, della mamma, perché ho immaginato che Costanza si è rimasta orfana di mamma su per giù verso la terza media, 12-13 anni. E quindi un evento del genere secondo me può disgregare completamente o al contrario può fortificare e unire. Allora io ho scelto per Costanza in realtà questo tipo di soluzione narrativa, ho preferito per lei il bene. Lei è stata anche supportata nella sua scelta della maternità da single, no? Anche se una che per testardaggine vuol fare tutto quanto da sola, vuol farcela da sola, cioè lei è una che è così di carattere, però poi hai per forza bisogno degli altri, non c'è niente da fare, quindi sua sorella per lei è veramente un punto di riferimento fondamentale. Il rapporto fra sorelle era poi, se vogliamo, proprio il tema centrale del primo libro della serie di Costanza. Sì, è vero, in questo secondo è più sfumato perché è messo in risalto altri elementi, esatto. Così come è anche un po' più sfumata la questione dell'educazione della bambina Flora, perché la famosa frase Montessori flagellami, che compariva sì. molto spesso nel primo romanzo, qui compare ma diciamo meno l'ho che smorzato. Nel primo. L'ho smorzato, qualche lettrice mi ha detto too much, allora, too much. Va bene. Però insomma, Alessia Gazzola, un'ultima domanda. Ho letto un articolo in cui tu stessa dicevi che sei passata, diciamo, a un nuovo personaggio seriale, perché molti conoscono Alice a Levi, adesso c'è Costanza che è protagonista già di due romanzi, e hai definito questo passaggio come un azzardo, meglio, molti ti hanno detto di questo passaggio che è un azzardo, avevi già un personaggio veramente di grandissimo successo, mm-hmm. Tu hai fatto questo azzardo e ora sei soddisfatta di averlo fatto? Io sono soddisfatta perché io credo, resto convinta che la scrittura debba essere sempre una sfida per l'autore e che debba divertire. Io, nel mio caso, che scrivo libri per divertire, devo divertire prima di tutto me stessa, e quindi se non mi diverto io o non mi emoziono io, mi chiedo come io possa fare a trasmettere cose che io non provo. Quindi io sono molto soddisfatta di averlo fatto, perché sono convinta di aver proposto delle storie che hanno una base di creatività molto genuina e di un entusiasmo sincero da parte mia. Io poi non penso di dovermi lasciare alle spalle l'allieva, perché non è quello lì il punto, anche perché è ancora molto viva di fatto. Poi io non escludo un domani di tornare a scrivere un nuovo capitolo di Alice, se troverò la storia giusta e se sentirò proprio quella voglia di tornare a parlare di lei, però con uno slancio nuovo, ecco. Anzi, io spero di avere una nuova idea per Alice. È talmente più facile, lo posso dire, come autrice, perché è come, davvero sarebbe come rimettere le ciabatte dopo aver camminato coi tacchi. Perché i personaggi li conosco già benissimo, sono amatissimi, i lettori non aspettano che questo, quindi per me, da un punto di vista, cioè proprio dell'autrice, sarebbe facilissimo. Quindi io me lo auguro proprio. E questa era Alessia Gazzola che ci ha parlato di Costanza e buoni propositi, pubblicato da Longanesi. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla nanomedicina ai materiali bioispirati, dalla blockchain alle tecnologie per la sostenibilità. Con Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, apriamo una finestra sul futuro. Tante notizie da tutto il mondo, commentate da alcuni dei nostri migliori scienziati. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24. Il cacciatore di libri. It's difficult, it's very tough. I said to the man who'd been sleeping rough. Questo è il centro del mondo, qui c'è la manna ma c'è anche il demonio. Questa frase viene pronunciata da uno dei protagonisti del romanzo che si intitola Al centro del mondo, è stato scritto da Alessio Torino, pubblicato da Mondadori e compare anche nella quarta di copertina. Devo dire che è una frase che proprio racchiude il senso di questo romanzo. Il protagonista è Damiano, un ragazzo di 17 anni che vive a Villa La Croce, un piccolo borgo nell'entroterra marchigiano. Qualcuno dice che Damiano è un po' matto, fatto, perché diciamo ogni tanto ha delle crisi. Del resto, quando aveva 8 anni aveva trovato suo padre impiccato alla quercia davanti casa, quindi naturalmente questo è un evento che ha segnato tutta la sua vita. Damiano vive bene in questo suo microcosmo fatto dello zio Vince, della nonna Adele. Diciamo che è un ragazzo che non ama molto i cambiamenti, ma poi vedremo che cosa accade naturalmente nel corso del romanzo. Alessio Turino, allora, innanzitutto, come hai voluto dipingere questo tuo protagonista? Chi è Damiano? Beh, sì, direi anch'io un ragazzo che non ama molto i cambiamenti. E andando un po' più avanti rispetto a questo, direi che è un ragazzo che difende la mancanza di cambiamento, ovvero difende la sua felicità, che per lui è quello di stare in questo posto, Villa La Croce, con la sua famiglia, con quello che rimane della sua famiglia, con sua nonna, in casa, eccetera. E lui fa di tutto per difendere questo mondo che lo protegge, che lui ama e che non gli fa sentire la mancanza di nient'altro. Ecco, abbiamo detto che il padre di Damiano è morto, si è suicidato, la madre l'ha abbandonato, lui vive dunque con la nonna Adele, che è l'unica che lo comprende realmente, con lo zio Vince, che è un uomo, diciamo, più aspro, non ha la sua stessa sensibilità. Questa famiglia produce miele, il miele che viene chiamato manna, la manna che abbiamo citato dalla quarta di copertina, perché pare abbia un potere afrodisiaco particolare e che faccia restare incinte le donne che appunto lo consumano. Quindi diciamo che questa è per loro una produzione preziosissima. Sì, loro fanno questo miele che ha questa nomea e quindi lo portano al mercato del paese, nei vari mercati, la gente lo compra, ma soprattutto ecco, c'è un forte legame da parte dei Bacciardi, questa famiglia, con il mondo delle api, che è un legame antico che risale indietro nei secoli, perché le api avrebbero indicato nel 1400 un luogo in cui far nascere e costruire il santuario. Quindi queste api, che a loro volta sono delle famiglie, e questa parola è in comune tra il mondo delle api e il mondo degli umani, cioè famiglia, è un mondo con cui Damiano parla, potremmo dire addirittura quasi in senso letterale, perché lui è convinto di poter capire le api, è convinto che Maria, cioè la Madonna, parli attraverso le api con lui, e in certi momenti anche è convinto di poterle lui comandare, queste api. E la sua simbiosi con la natura è totale. Naturalmente il lettore sente che le cose potrebbero essere interpretate in modo diverso, ma allo stesso tempo viviamo la storia attraverso gli occhi di Damiano e in effetti le api le vediamo comandate dai suoi gesti e dalle sue mani. E a proposito del rapporto che Damiano ha con le api, hai già accennato al fatto che a volte sembra quasi che Damiano possa influenzare il comportamento delle api. Diciamo che c'è sempre una dimensione del reale che si intreccia a quella dell'immaginario. A volte il lettore non capisce se le cose che accadono a Damiano siano cose reali nel romanzo naturalmente, o siano frutto della sua immaginazione. Lui a un certo punto pensa di vedere anche il male impersonificato negli animali, nelle cose della natura o nelle persone. Ecco, che tipo di rapporto ha Damiano con questa entità, con il demonio? Beh, i compagni di classe, con la bontà e la comprensione che contraddistinguono gli esseri umani, un giorno gli hanno fatto trovare una scritta dietro la porta del bagno della scuola: Damiano Psycho Bacciardi, con un disegno sopra dell'impiccato stilizzato, che naturalmente si riferisce a suo padre. Come solo i ragazzi possono essere crudeli a volte, esatto, nei confronti, esatto, dei propri compagni, ecco. Esatto, e quindi, come dire, da uno sguardo esterno veloce lo si potrebbe anche catalogare così, uno psycho, uno sbandato, un borderline, però in realtà il suo mondo che noi viviamo con lui è un mondo ricco, un mondo fatto appunto di un dialogo con la natura, a volte assoluto e quasi come contrappeso di una mancanza di un dialogo invece sull'altro fronte, quindi di un dialogo umano. E attraverso la natura filtra quasi tutto, anche le paure più profonde ancestrali. Quando, come tu ricordavi, ad esempio, lui vede alcune facce così nei licheni dei tronchi, ha paura di alcune ombre e cose del genere. La natura gli parla, e però gli parla anche poi di stati di grazia, non soltanto appunto stati dell'ombra. E soprattutto per quello che è in questo caso, di nuovo un altro contrappeso, la voce di Maria, che poi a volte si sovrappone a quella della nonna, a quella delle api e così via. Ecco, diciamo che Damiano è una persona che forse fa più fatica a comunicare con gli esseri umani, ma riesce meglio a comunicare con una dimensione spirituale e con una dimensione della natura. Per esempio, lui ha difficoltà quando deve andare al mercato a vendere questi vasetti di miele, perché insomma non sta bene in mezzo agli altri esseri umani. C'è invece un incontro destinato forse a cambiare il corso della sua vita con un tale che si fa chiamare Theo van Gogh. Potremmo dire che è un pittore di strada, che va sempre in giro con un pappagallo, è un drogato, insomma, ha diverse, è forse uno sbandato, mettiamola così, come lo definisce lo zio Vince. Eppure è l'unica persona, è l'unico essere umano con il quale Damiano si sente in sintonia. Sì, Damiano ha questo cappellino con cui gira regolarmente, che con la visiera gli fa questa piccola ombra sulla fronte, sopra gli occhi, che gli dà quasi un senso di piccola protezione e di distacco dagli altri. E in effetti lui, quando va al mercato, si sente un po' invadere da tutte queste facce, presenze, voci. Lui è abituato com'è a starsene così in mezzo ai campi o nel suo borgo. Però a un certo punto fa un incontro con questo pittore da strada, Theo van Gogh, che si fa chiamare così perché è come un pittore che sa che non potrà mai raggiungere l'arte grande, no? Quella di Vincent, e quindi lui si fa chiamare Theo van Gogh. E con questo pittore stringe un'amicizia. E grazie anche a questo pittore inizia un percorso di libertà in Damiano, una strada di libertà, anche di ribellione nei confronti di alcuni silenzi che lui vive nella propria famiglia. Sì, è come se gli desse una sorta di energia anche per affrontare delle difficoltà, soprattutto per esempio il rapporto anche con lo zio Vince, perché abbiamo detto lo zio è un po' brusco, magari anche un po' prepotente, tra l'altro vuole vendere la proprietà, la terra a cui Damiano è legatissimo, quindi insomma non sono esattamente in sintonia zio e nipote. Certo, perché c'è comunque questo segreto di famiglia di questo padre che si è impiccato tanti anni prima, ma non si sa bene perché, e questo silenzio continua a gravare nella famiglia dei Bacciardi, come poi accade in tutte le famiglie in cui succedono cose traumatiche, che le famiglie, per autodifendersi, poi col silenzio spesso si riposizionano, rimettono insieme i pezzi. E quando Theo van Gogh si affaccia in questa famiglia, è proprio questo silenzio che comincia a scricchiolare, e zio Vince, che è il primo custode di questo silenzio, perché lui ha una parte, ce l'ha in quello che è successo. Che è successo, ma non diciamo troppo, naturalmente. Certamente una parte ce l'ha, e istintivamente sente Theo van Gogh come un nemico, e come tale lo tratta e cerca appunto di allontanarlo il più possibile. Damiano è sicuramente legato alla terra, ma forse più legato, e quindi alla natura che lo circonda, alle arnie, alle api, ma è anche molto legato ai suoi pochi affetti che lo circondano. Cos'è che lo spaventa di più della possibilità, appunto, che questa terra venga venduta? È il cambiamento in sé, è l'idea di poter perdere il proprio microcosmo, è il legame con la terra, che cosa? Beh, probabilmente sente che tutto questo è un sinonimo della vita che banalmente scorre, che meccanicamente scorre, e come dicevi tu, è legato ai suoi pochi affetti, alla nonna, eccetera. E quindi lui vorrebbe che tutto restasse così com'è, cioè il borgo, la proprietà, eccetera, sotto sotto, perché vorrebbe che tutta la vita restasse così com'è, cioè anche a sua nonna, le sue api, eccetera. Quindi lui non vuole cambiare, perché vorrebbe che la vita intera, tutta quanta, restasse così com'è. Damiano, abbiamo detto che è un ragazzo apparentemente molto pacato, ma alla fine è anche un ribelle. È sicuramente sì, è un ribelle, un grande ribelle, è anche pronto ad armarsi per questo, anche in senso letterale. E però per questo dobbiamo leggere il romanzo, perché altrimenti non possiamo svelare troppo. Grazie ad Alessio Torino, ora in libreria con Al centro del mondo, pubblicato da Mondadori. Grazie Alessio. Grazie a te Alessandra. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Ci trovate anche sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, e su Instagram come Cacciatore di Libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.